Lettera inviata a Roma dalla città sassone di Wittenberg. Indirizzata a Gian Pietro Carafa. Datata 28 maggio 1525. All'illustrissimo e reverendissimo signore Giovanni Pietro Carafa, in Roma. Signore mio onorandissimo, è con grande soddisfazione che scrivo per dare la lieta notizia. Gli ordini di vostra signoria sono stati eseguiti il più rapidamente possibile e hanno ottenuto il risultato sperato. Avrete forse già avuto nuove dalla terra di Germania e saprete che l'esercito dei contadini insorti è stato sconfitto. Mentre vergo queste righe, i mercenari dei principi si accingono a debellare gli ultimi fuochi della più grande rivolta che queste lande abbiano mai conosciuto. La città ribelle più fortificata, che è stata l'epicentro dell'incendio, Mulhausen, si è arresa già da alcuni giorni all'esercito dei principi e la testa del suo capopopolo, Henrik Pfeiffer, è caduta ieri sulla piazza di Görmar, insieme a quella di Thomas Münzer. Le voci riportano che nelle sue ultime ore il predicatore, sottoposto alla tortura, abbia taciuto senza un lamento in attesa del boia e che solo una volta, nell'ultimo istante di vita, abbia fatto risuonare la voce per la quale si è reso famoso presso il volgo. Omnia sunt communia, dicono sia stato il suo unico grido, lo stesso motto che ha animato il furore popolare di questi mesi. Ora che il sangue dei due uomini più pericolosi si è mescolato sul selciato, la signoria vostra può senza dubbio rallegrarsi per quella lungimiranza e saggezza in cui il suo fedele osservatore confida ciecamente da sempre. Ma per non venire meno al voto di franchezza che avete richiesto da parte mia, confesserò di aver dovuto agire assai precipitosamente, rischiando finanche di mettere a repentaglio i mesi di lavoro e di sforzi concentrati nel tentativo di procurarmi la fiducia del focoso predicatore dei contadini. Solo grazie a tale precedente tessitura, peraltro, è stato possibile accelerare la rovina di Münzer. L'avergli offerto i miei servigi e informazioni sugli intrighi di Wittenberg ha consentito di guadagnarne la fede e di potergli passare le false notizie che lo hanno spronato allo scontro campale. A onor del vero, devo dire che il nostro uomo ci ha messo bene del suo per far precipitare gli avvenimenti. La mia missiva non ha sortito che l'effetto di offuscare l'ultima luce di raziocinio. Un'armata di straccioni non poteva avere alcuna speranza di sconfiggere le schiere ben armate degli anzichenecchi e la cavalleria dei principi. Orbene, mio signore, dato che con tanta magnanimità richiedete il mio parere su quanto è stato fatto finora, lasciate che il vostro grato servitore liberi il cuore dal peso di tutte le impressioni e dai semplici giudizi che lo colmano. Quando il buon cuore di vostra signoria mi scelse per osservare da vicino gli affari dei principi tedeschi col monaco Martin Lutero, non era possibile immaginare ciò che il Signore Dio avrebbe riservato a questa regione. Che l'apostasia e l'eresia avrebbero stretto un patto tanto forte con il potere secolare e si sarebbero a tal punto radicate negli animi non era destino che intelletto umano potesse intravedere. Ciononostante, in quel tremendo frangente, la vostra fermezza mi ordinò di cercare un antagonista al dannato Lutero per fomentare lo spirito di ribellione del popolo contro i principi apostati e indebolirne la compagine. Quando non era nelle facoltà umane riconoscere il grave pericolo che sarebbe giunto da colui che si erge a paladino della cattolicità, l'imperatore Carlo V, la vostra saggezza è stata tale da indicare al suo umile servitore la direzione giusta in cui indirizzare l'operato e subito, appena appresa la notizia della cattura del re di Francia sul campo di Pavia, ha saputo dare l'ordine più appropriato: accelerare la fine della rivolta contadina affinché i principi amici di Lutero potessero essere saldi rivali di Carlo. L'imperatore, infatti, avendo vinto e catturato il re dei francesi in Italia, si innalza ora come un'aquila rapace che, palesando di voler difendere il nido di Roma, può offuscarlo con la sua ala e il rostro acuminato. La vastità dei suoi possedimenti e il suo potere sono del resto tali da mettere a repentaglio l'autonomia della Santa Sede e l'autorità spirituale di Roma, tanto da spingere a preferire che in una regione dell'impero come questa da cui scrivo, i principi eretici continuino a piantare la spada nel costato di Carlo pur di non lasciarlo libero di fare il bello e il cattivo tempo in tutto il mondo. Ciò che il peccatore apprende è che il Dio misericordioso non manca mai di ricordarci quanto misterioso e insondabile sia il suo disegno. Colui che ci difendeva ora ci minaccia, coloro che ci attaccavano ora ci sono alleati, e allora sia fatta la volontà di Dio. Amen. Ed ecco dunque che il servo risponde con la franchezza richiesta dal suo signore. La valutazione della signoria vostra è sempre stata, a mio umilissimo avviso, quanto mai lungimirante e repentina, E lo è stata tanto più in quest'ultimo frangente, a tal punto che questo suo braccio è sommamente onorato di aver saputo agire quanto più prontamente possibile per adempiere alla direttiva. Più di quanto la signoria vostra non abbia intuito e previsto, non era dato intuire né prevedere. Oscure e tortuose sono le vie del Signore e solo alla sua volontà dobbiamo rimetterci. Non spetta a noi mortali giudicare l'operato dell'Altissimo. Il nostro umile compito, come la signoria vostra non manca occasione di ricordarmi, può essere soltanto quello di difendere un barlume di fede e cristianità in un mondo che sembra andare perdendola di giorno in giorno. Per questo facciamo tutto ciò che facciamo, non curandoci di leggi umane o patimenti di cuore. Ebbene, sono certo che saprete indirizzarmi ancora una volta, nelle traversie e nelle insidie che questo tempo sembra riservare ai cristiani e che fanno tremare le vene. Il Signore ha voluto concedere a questo peccatore la valida guida della signoria vostra e ha concesso che questi occhi e questa mano potessero servire la sua causa. Ciò mi fa star saldo nell'affrontare le sfide future, in impaziente attesa di una vostra nuova parola. Baciando le mani di vostra signoria e raccomandandomi continuamente della sua grazia, di Wittenberg, il giorno 28 maggio 1525, il fedele osservatore di vostra signoria.